Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Nel libro Rivoluzione in corso, il ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ripercorre le varie tappe della sua battaglia contro i fannulloni del pubblico impiego. E uno dei maggiori esempi di inefficienza nel nostro paese è certamente quello della magistratura. I magistrati, tutti i magistrati, sono dipendenti pubblici. È vero che la loro è una posizione particolare, che la disciplina interna è autogovernata dal Consiglio Superiore della Magistratura e che non esiste un orario di lavoro, ma tutto questo non impedisce e nemmeno consente di omettere i controlli di produttività o di presenza al lavoro. La giustizia senza giustizia non è solo quella penale, ma anche quella civile. Ci vogliono anni per risolvere una banale controversia condominiale, con il rischio che nell'attesa, a forza di dispetti di cortile, la faccenda si trasferisca al penale. Lo Stato chiede ai professionisti e a tutti gli autonomi di pagare subito l'IVA sulle fatture che emettono e sul reddito che ne deriva preleva un'ulteriore quota. Ma se poi il cliente non paga, inizia il calvario del decreto ingiuntivo, cui l'interessato s'oppone, poi il processo, e se in un decennio lo vince o gli hanno riconosciuto all'inizio la provvisoria esecuzione, non per questo prende i soldi, perché a quel punto comincia l'esecuzione, la notifica, che può essere fatta in alcuni casi dall'avvocato, altrimenti comincia la ricerca dell'ufficiale giudiziario. Il debitore non paga ancora. Quindi l'interessato chiede un pignoramento, cui dovrebbe seguire una vendita giudiziaria, ma se nel frattempo il debitore versa un quinto della somma, il giudice ferma tutto e gli concede una proroga, e così via, con una procedura che può durare anni. Lo Stato ha incassato la sua parte da più di 10 anni, quando il povero cittadino che ha fiducia nella giustizia ancora non ha visto i propri soldi, e in compenso ne ha dati all'avvocato e per le spese giudiziarie. Alcuni mollano pur avendo ragione, perché non per questo sono pronti a morire con il fegato marcio. Se poi si ha una casa occupata da chi neanche paga l'affitto, ci si rassegni. Il diritto di proprietà è tutelato dalla Costituzione, ma avversato per ogni dove e agli occhi del sindaco, del prefetto e del giudice, il poveraccio non è quello che vuole indietro la propria casa, ma quello che la occupa e non intende mollarla. Le statistiche europee sono per noi vergognose. Alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, l'Italia è il paese largamente più condannato. Fino al 2006, gli altri hanno denunce e condanne nell'ordine delle decine. Chi ne ha di più, come la Francia e la Spagna, conta 305 denunce e 255 condanne. L'Italia ne ha rispettivamente 1258 e 1012. Veniamo alla durata media di un processo misurato in giorni. Si tratta dei dati ufficiali, resi noti dalla giustizia all'inizio del 2007. Nel settore civile ci vogliono mediamente 340 giorni per chiudere un procedimento davanti al giudice di pace, 887 per un primo grado in tribunale, 1020 per il secondo e 1102 per la Cassazione. Dunque, per un processo civile ci vogliono mediamente 3009 giorni, ossia 8 anni e 3 mesi. Questo nella media. Perché se si disaggrega il dato e lo si riferisce al solo primo grado, si vede che a Messina servono mediamente 1400 giorni per un primo grado, ossia 4 anni. Nel settore penale occorrono 630 giorni per il giudizio dei tribunali collegiali, 603 per le corti d'appello, 426 per le corti d'assise, 242 per le corti d'assise d'appello e 280 per la Cassazione. Questi dati, già drammatici, si riferiscono alla durata del processo, ma non tengono conto che prima ci sono stati anni di indagine, mesi e talora anni per concludere l'udienza preliminare e rinviare a giudizio. Non c'è da stupirsi, quindi, se un buon numero di quei procedimenti sono di fatto suicidi, nel senso che continuano nonostante alla loro fine i reati saranno prescritti, quindi inutili il lavoro e le spese affrontate, sia a carico della collettività, sia in questo caso dei singoli. Ogni anno questi dati si aggiornano e correggono, ma l'andazzo resta negativo ed il quadro complessivo è quello di un malato terminale. Ogni anno questi dati si aggiornano e correggono, ma l'andazzo resta negativo ed il quadro complessivo è quello di un malato terminale. Poniamoci ora una domanda diversa. Quanta gente lavora nella nostra giustizia? Limitiamoci agli avvocati e ai giudici che si trovano in tribunale secondo i dati ufficialmente trasmessi e relativi al 2004. In valore assoluto siamo secondi solo alla Germania, che è la fusione di due stati. Ma se si fa il conto relativamente alla popolazione, ci battono solo i paesi molto piccoli, dove naturalmente il rapporto è influenzato dal denominatore basso. Ciò significa, in estrema sintesi, che il nostro sistema di giustizia è costosissimo, che ci lavora un esercito di persone, che tutti quelli che reclamano più soldi e più personale o non sanno quello che dicono o fingono di non saperlo. Spesa enorme, elefantiasi strutturale ed umana, inefficienza ed intasamento. Ma guardando dentro la macchina della giustizia, guardando nei meccanismi che quotidianamente si riproducono nei tribunali, quale cause ne continuano a bloccare la produttività? Il processo dura troppo, questo nessuno sano di mente si permette di contestarlo. Ma perché? È quel che si sono chiesti alle Camere Penali commissionando uno studio all'Eurispes. Vediamo il primo dato. Quanto dura in media un'udienza? Quanto tempo passa da quando il giudice apre un fascicolo, presenti le parti in un tribunale, al momento in cui lo richiude? 12,51 minuti nei procedimenti monocratici, 32 minuti netti nei procedimenti collegiali. E mediamente, per quando viene fissata l'udienza successiva? 152 giorni dopo nei procedimenti monocratici, 134 giorni per quelli collegiali. D'altronde è evidente che se a un caso singolo vengono dedicati una ventina di minuti ogni 5 mesi, è poi difficile sperare che si faccia in fretta. Ma cosa succede nel corso delle udienze? Come si concludono di solito? Cosa accade prima del rinvio ai 5-6 mesi successivi? La ricerca evidenzia che nel 69,7% dei casi l'esito è il rinvio ad altra udienza, nel 28,6% la sentenza, nell'1,7% la restituzione degli atti al pubblico ministero. I rinvii rappresentano dunque l'esito della netta maggioranza delle udienze. Quando si restituiscono gli atti al pubblico ministero, la ragione è quasi sempre un errore formale commesso dallo stesso pubblico ministero. Il dato davvero clamoroso è il seguente. Bene il 42,6% dei processi fissati per lo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale viene rinviato senza che si sia fatto nulla, perché l'atto, in verità assai banale, della citazione del testimone o è stato del tutto omesso o è stato effettuato in modo errato, ovvero, pur effettuato regolarmente, non è stato ottemperato dal destinatario. Pertanto, quanti dicono che i processi durano troppo a causa dell'atteggiamento ostruzionistico dell'imputato e della sua difesa, quanti affermano che i tempi di prescrizione incivilmente lunghi non devono essere toccati perché altrimenti non si farebbe che incoraggiare quelle condotte, semplicemente non sanno quello che dicono. La realtà quotidiana smentisce questo modo di descrivere e vedere le cose. I fatti, insomma, sono più duri della testa di chi continua a ripetere le stesse e sbagliate cose. Cito ancora il caso del Tribunale di Catania, niente affatto eccezionale. Nel 21,3% dei casi il rinvio è dovuto all'assenza del giudice titolare, nel 48,4% alla già descritta assenza dei testimoni d'accusa. Nel 21,3% dei casi il rinvio è dovuto all'assenza del giudice titolare, nel 48,4% alla già descritta assenza dei testimoni d'accusa. Un mercato dove la giustizia non funziona è un mercato corrotto. Non si tratta solo dell'incapacità di individuare e perseguire i reati di corruzione, ma più generalmente dell'incapacità di far rispettare le regole. Dall'inizio alla fine di una procedura di fallimento passano in media 3.140 giorni, quasi 9 anni. Immaginate di avere un'azienda che deve avere dei soldi dal fallito e fate due conti di quanto vi costa l'inesistenza della giustizia. Immaginate di avere un'azienda che deve avere dei soldi dal fallito e fate due conti di quanto vi costa l'inesistenza della giustizia. Confartigianato i conti, ha provato a farli. Non è facile, ma a spanne sono possibili. E ne ha dedotto che, per le sole imprese artigiane, quei costi ammontano a 2,3 miliardi di euro l'anno, in media 384.000 euro ad azienda. I dati sono drammatici e riportano a galla una differenza territoriale che segna lo svantaggio di certi imprenditori per il solo fatto di trovarsi in una regione anziché in un'altra. E si tratta di uno svantaggio dovuto alla giustizia, quindi allo Stato, senza contare lo svantaggio dell'intera azienda Italia rispetto ai diretti concorrenti esteri. Se prendiamo a riferimento il tempo per far rispettare un contratto, la performance del nostro sistema giudiziario presenta profonde inefficienze rispetto ai sistemi giudiziari dei principali paesi industrializzati. La durata media rilevata dalla Banca Mondiale nel 2006 per far rispettare un contratto del valore pari a due volte il reddito pro capite in Italia è pari a 1.210 giorni, contro i 515 giorni della Spagna, i 394 della Germania e i 331 della Francia, dove, non dimentichiamolo, tutti si lamentano per la lentezza della giustizia. Tutto questo naturalmente senza considerare che l'inefficienza della giustizia nel recupero dei crediti consegna a talune organizzazioni criminali l'inquietante fascino della tempestività e dell'efficacia. Quante volte abbiamo sentito ripetere che la giustizia italiana funziona male per mancanza di mezzi? Abbiamo già visto che i conti non tornano dal punto di vista della spesa, complessiva e pro capite, ma non tornano neanche da quello dell'innovazione tecnologica, dei mezzi informatici messi a disposizione. Non esiste solo l'arretratezza burocratica, c'è anche l'innovazione demenziale e sprecona. Noi abbiamo il processo più lento del mondo, ma anche la magistratura più informatizzata del pianeta. Ci sono 7.000 server e 169 sale che li ospitano a disposizione della giustizia. Uno sproposito. Le sale vanno climatizzate e protette. Ne basterebbero 29, ma spendiamo per averne 140 di troppo. I server potrebbero essere meno di 1.000, ma noi paghiamo la manutenzione e la licenza per 6.000 d'avanzo. I contratti d'assistenza prevedono una copertura per l'intera giornata, 24 ore su 24, con programmisti riservati sempre a disposizione. Costano una tombola e gli interventi più richiesti sono quelli degli uffici in cui la mattina si impalla il computer. Per risolvere il problema basterebbe un ragazzino, mentre paghiamo un'impresa che presidia la notte. Se anziché questo circo adottassimo un sistema serio, avremmo una sola rete integrata e su quella faremmo viaggiare servizi capaci di tagliare i costi per non meno di 100-150 milioni di euro l'anno, cui dobbiamo sommare i risparmi per aver smantellato il mosaico di iniziative scombinate. Funzionerebbe meglio e si spenderebbe meno. Il fatto è che la spesa per l'innovazione è stata fatta in modo scombinato, affidata alla malintesa autonomia dei singoli uffici giudiziari, con il risultato di moltiplicare gli inutili doppioni e ridurre l'efficienza. Inoltre, a che serve tutta questa macchina se poi i magistrati affermano che lavorano meglio quando se ne stanno a casa? I tornelli che tanto hanno agitato la fantasia di chi ritiene di essere l'unico giudice di se stesso sono solo uno strumento, niente affatto sofisticato, ma non esiste alcun lavoro al mondo di cui non si possa misurare la produttività. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Renato Brunetta, Rivoluzione in corso, il dovere di cambiare dalla parte dei cittadini. Mondadori Editore, 272 pagine, 18 euro. Letture di Radio 24. I nuovi precari inseguono il mito del posto fisso, mentre i loro genitori, alla stessa età, intravedevano spesso, nella possibilità di cambiare lavoro, un segno di libertà. Qualche giorno fa, al Festival di Mantova, una persona del pubblico mi porge il libro per l'autografo presentandosi così. Sono un precario. Aveva la voce roca e gli occhi bassi e il tono di chi ammette una sventura, o peggio ancora, una condanna. Lo guardo. Era un ragazzo sui 25-30 anni. Gli sorrido. Gli dico, no, non si preoccupi, lei è solo giovane. C'è stato un tempo in cui la giovinezza era baldanzosamente precaria. Anzi, era semplicemente la giovinezza. Giovane voleva appunto dire che non avevi ancora raggiunto alcuna stabilità e sicurezza e certezza e definitiva posizione. Eri insicuro, instabile, incerto, dubbioso, indefinito, nebbioso, transitorio, occasionale, passeggero, precario, giovane. Quel tempo era il mio tempo, gli anni 70. Anche allora non era facile trovare lavoro, soprattutto subito dopo la laurea. Per anni facevamo lavoretti insulsi, mal pagati o spesso gratuiti. Facevamo di tutto. Vendevamo libri, scaricavamo merci, scrivevamo articoli gratis e su giornaletti da nulla, stavamo appesi al telefono nella speranza di ricevere lo squillo di una segreteria scolastica che ci convocava per 3 giorni di supplenza a 40 chilometri da casa. Altro che tempo determinato. A volte erano lavori della durata di un lampo. Non voglio fare l'epopea dei supereroi che eravamo. Non lo eravamo per nulla, però non eravamo affetti da vittimismo. Non ci sembrava mai di essere dei poveri derelitti. Non ci veniva neanche in mente di definirci precari e di prendercela con gli altri, di protestare ad esempio contro lo Stato colpevole di non assicurare a tutti il posto fisso, a costo di creare artificiosamente un sovrannumero di posti di lavoro che poi sarebbero inevitabilmente saltati al primo vento di crisi. Come oggi, appunto. Mi chiedo se è questo lo Stato che vorrebbero i precari che in questi giorni levano le loro proteste. Uno Stato che continua a creare finta occupazione, gravando sul nostro debito? Si poteva anche essere felici, molti di noi lo erano, di non trovarsi ancora definitivamente presi, incasellati presso qualche ufficio o ente o impresa. Ci sentivamo liberi e imprendibili. Lavoravamo fieri di essere ancora così meravigliosamente indefiniti, solo abbozzati, dei disegnini incominciati da una matita lenta e anche un po' distratta, che spesso e volentieri lasciava il tratto a metà e pensava ad altri disegnini. Avevamo, a dirla tutta, un vero e proprio orrore del posto fisso e della pensione. Per noi equivaleva a diventare un disegno finito per sempre, mai più modificabile. Non potevamo certo rivelare questo segreto pensiero ai nostri genitori. Non avevamo genitori accondiscendenti che ci dicevano «Prenditi tutto il tempo, non accettare lavori che non ti piacciono o non siano all'altezza delle tue aspettative, tanto noi ti manteniamo in eterno». Avevamo, al contrario, genitori esigenti, che facevano fatica a mantenerci e non lo ritenevano neanche tanto giusto oltre una certa soglia e quindi sognavano per noi un posto sicuro con la pensione assicurata. Ricordo che alla parola pensione mi veniva una tristezza indicibile. Avrei volentieri preso il primo treno e sarei scappata a vivere sotto un ponte piuttosto di una vita con pensione assicurata. Eravamo irresponsabili e leggeri, noi che non potevamo permetterci di esserlo. Ci prendevamo un lusso che non ci era permesso, il lusso di essere fino in fondo giovani. Il posto fisso voleva dire essere vecchi, irrimediabilmente cresciuti. Voleva dire passare il guado, entrare nella vita adulta, dove tutto era ormai definito e drammaticamente stabile e sicuro, irreversibile. Noi, invece, avevamo il mito della reversibilità. Ci piaceva pensare che tutto potesse ancora ribaltarsi, che le porte c'erano ancora tutte spalancate e che noi non eravamo ancora nulla, né arrivati da nessuna parte, e ci toccava solo goderci il viaggio il più a lungo possibile. «Quando ti metterai in viaggio per Itaca, devi augurarti che la strada sia lunga», scriveva Kevafis in una delle sue poesie più belle. E così, noi giovani, ultimi romantici spensierati, lavoravamo tantissimo, adeguandoci a qualsiasi impiego, anche se non ci piaceva per niente, non importava. Sapevamo che era mirabilmente transitorio, instabile, precario. Oggi invece, che buffo, si assiste a una sorta di inversione generazionale. Oggi, che le famiglie sono disposte a tollerare dei figli disoccupati, i figli si battono per avere il posto fisso subito. Ieri, che invece si chiedeva ai figli di lavorare, i figli sognavano di non sistemarsi mai. Paradossi dei tempi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Paola Mastrocola, L'innocenza perduta dei giovani precari, da La Stampa del 15 settembre. Nel suo libro autobiografico Nato sulle note, Sandro Giacobbe, oltre a raccontare 35 anni di carriera musicale, parla della sua esperienza con la Nazionale Cantanti, la squadra di calcio che da 27 anni svolge attività benefiche e della quale il cantautore genovese fa parte da sempre. Tutti i cantanti della Nazionale, noti e meno noti, vogliono che la loro immagine di artisti e sportivi possa essere utile a sostenere concretamente progetti di aiuto e solidarietà, in particolar modo dedicati al mondo dell'infanzia. Le finalità dell'associazione sono un vero e proprio impegno quotidiano, una presenza anche nelle piccole realtà territoriali italiane, per portare all'attenzione generale situazioni e problematiche che difficilmente avrebbero risalto. Gli aiuti poi si realizzano nel concreto. Contribuire all'acquisto del pulmino attrezzato, all'installazione di un macchinario che esegue esami specifici o dotare di una nuova poltrona un centro trasfusionale sono solo alcuni esempi di ciò che viene perseguito. In 27 anni di attività sono state organizzate oltre 450 manifestazioni, alle quali hanno partecipato 8 milioni di persone. Grazie a loro si sono materializzati incassi per 55 milioni di euro, interamente devoluti alla realizzazione dei progetti individuati. Oltre 300 sono le associazioni che hanno beneficiato delle raccolte fondi promosse, da quelle più conosciute, UNICEF, AIDO, Croce Rossa, FAO, Emergency, WWF, a quelle meno note, territoriali, che hanno avuto non solo il contributo economico, ma anche quello della visibilità e quindi dell'attenzione. Ricordo quando, nel 1992, decidemmo di fare la nostra prima partita del cuore allo Stadio Olimpico di Roma. Tutti ci prendevano in giro, nonostante la Nazionale esistesse già da una decina di anni. Nessuno credeva che saremmo stati in grado di riempire uno stadio di quella capienza. Fu una sfida vinta. 78.000 persone applaudirono alla nostra prima partita del cuore. Da allora di strada ne abbiamo fatta tanta. Sono 18 le partite del cuore disputate. Veri e propri eventi televisivi trasmessi in diretta, in prima serata, da Rai 1. Pensate che le ultime quattro edizioni, trasmesse da Rai International, sono state seguite da 500 milioni di telespettatori in tutto il mondo. L'Associazione Nazionale Cantanti ha incontrato squadre composte da tutte le categorie sociali, dai politici ai magistrati, dai calciatori e allenatori ai piloti, dagli attori ai tennisti, dai preti ai giornalisti, ai medici, agli avvocati. Ha giocato su campi internazionali fra i più prestigiosi, come quelli di Londra, Monte Carlo, Lourdes, Tirana, Bucarest, Mosca, Zurigo, Malta, Budapest, Sarajevo. Ha incontrato, in occasione delle partite disputate, molti artisti e sportivi, anche stranieri, tra i quali Sean Connery, Richard Gere, Maradona, Pelé, Michael Jordan, Michael Jackson, Rod Stewart, Sting, Liza Minnelli, Bono Vox, il maestro Luciano Pavarotti, Michael Schumacher. Che cosa rende unica l'Associazione Nazionale Cantanti? Credo che il suo tesoro più grande sia l'entusiasmo e la voglia di veder crescere, fino alla sua realizzazione, un progetto di solidarietà e amore. Sono un socio fondatore, allenatore dal 2000, ma ancora oggi mi stupisco piacevolmente quando giovani artisti della canzone si avvicinano con entusiasmo vero alla squadra. Non si entra per voglia di visibilità maggiore, né per denaro, ovviamente, ma perché si crede nelle finalità, pulite e trasparenti. È una famiglia in cui tutti sono motivati a dare il meglio per fare proprie le cause di altri, infrangendo le frontiere materiali e culturali. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro più CD Nato sulle note di Sandro Giacobbe, a cura di Liliana Tartoni, Erga Edizioni, 80 pagine, 12 euro.